La stazione radio stamattina vive in una grande agitazione, per un grave fatto si indovina, sono tutti in apprensione. Ingegneri, tecnici ed attori stanno muti a udir l'annunciatore che fa appello ai radioascoltatori con la voce scossa dal tremore. Della radio l'usignol stamattina ha preso il vol, al suo libero cielo ha voluto ritornare. Nella gabbia Filidor rimaneva male in cuor, tutti i passeri udendo di fuori cinguettar. Una passeretta lo chiamò, gli disse cicicì, all'amore non puoi dir di no, e l'uccelli fuggì. Non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornar nel suo volo d'amore d'azzurro verso il sol. L'uccellino della radio ha preso il volo. Forse di una scuola l'uccellino sopra un davanzale si posò, chino sopra il compito un bambino al suo canto si voltò. Cinguettò in un modo che i piccini subito guardarono di fuor, o poter cacciare i maggiolini, correre per i prati tutti in fior. Della radio l'usignol stamattina ha preso il vol, al suo libero cielo ha voluto ritornare. Nella gabbia Filidor rimaneva male in cuor, tutti i passeri udendo di fuori cinguettar. Una passeretta lo chiamò, gli disse cicicì, all'amore non puoi dir di no, e l'uccello fuggì. Non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornar nel suo volo d'amore d'azzurro verso il sole.